Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Naturalmente potete trovarci anche sul web tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it e che vi permette di ascoltarci in tutto il mondo, mentre col DAB potete ascoltarci oltre che in tutta l'Emilia Romagna anche in Toscana e in Lombardia. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che ogni mercoledì, quasi, salute permettendo, vi propone un paio di ore di musica live, ufficiale naturalmente, e che comincia sempre con una novità. Novità che quest'oggi è molto succulenta, nel senso che trattasi di un doppio CD più Blu-ray. Allora, un piccolo inciso, perché il Blu-ray credo non abbia avuto il successo che speravano le case che facevano i Blu-ray, sia i lettori che i dischi Blu-ray, per cui c'è questa abitudine pessima di abbinare un CD o un doppio CD, come in questo caso, con un Blu-ray che tanto non venderebbero. Quindi invece del DVD, che è più vedibile da tutti, più consumabile da tutti, il Blu-ray è già una cosa un po' più di elite, diciamo così, perché è più costosa. Comunque l'album doppio, come vi dicevo, più Blu-ray che vi propongo come novità quest'oggi, è ad opera di un grandissimo chitarrista che risponde al nome di John McLaughlin. John McLaughlin arriva da Doncaster nel South Yorkshire, in Gran Bretagna naturalmente. Ha iniziato la sua carriera giovanissimo, partendo nella band di Alex's Corner, che è uno dei padri del blues britannico, e poi da lì ha iniziato una carriera che l'ha visto attraversare un sacco di band del rock blues britannico, appunto, per poi sfociare in un jazz, dove è stato introdotto niente po' di meno che da Miles Davis, che lo chiamò per incidere un paio di album, e poi da lì la carriera che spero molti di voi conoscano. Il suo primo album si chiama Extrapolation ed è del 1969, quindi capite che il nostro ha parecchia esperienza alle spalle. Negli anni 70, primi anni 70, iniziò a seguire la dottrina di un guru indiano che si chiama Sri Chinmoy, che lo soprannominò Mahavishnu, anzi lo chiamò Mahavishnu, il nome indiano, diciamo così, e Mahavishnu è rimasto sempre il nome che lo ha seguito e che ha dato anche il nome, scusate la ripetizione, a una delle band più famose in cui ha militato, anzi che ha guidato, a dire il vero, John McLaughlin. Naturalmente ha fatto un sacco di album in tutti questi anni, anche dal vivo, molti dal vivo, sia in acustico che in elettrico. Qui abbiamo un album che della serie Jazz Festival, Montreux Jazz Festival, esattamente del 2022. In precedenza, nel 2022 proprio, ci fu un altro album pubblicato da John McLaughlin che si chiamava The Montreux Years, che racchiudeva diverse registrazioni, registrazioni effettuate nel corso di diversi anni. Qui invece abbiamo proprio la registrazione del concerto che si è svolto l'11 luglio del 2022. L'album è accreditato a John McLaughlin and the Fourth Dimension e fra le altre chicche contenute in questo album c'è questa anche High Jacket, John McLaughlin and Fourth Dimension. We'll be right back. Velocissimo come sempre sul manico della chitarra, Joe McLaughlin, chitarrista fantastico, l'abbiamo visto diverse volte anche qua a Bologna, sia in versione acustica che elettrica, qui in versione super elettrica con una band, quella dei Four Dimension, che lo accompagnano in un modo veramente incredibile, musicisti fantastici. Si chiama Montreux Jazz Festival 2022, questo doppio CD più DVD che contiene questo Hijacked che ci siamo ascoltati, da Joe McLaughlin. Come dice il nome stesso, il Montreux Jazz Festival si tiene nella omonima cittadina, ridente cittadina si dovrebbe dire, Svizzera, su un posto veramente incantevole, e è stato inventato, organizzato e coordinato sin dal 1967 da Claude Nobs, un fanatico della musica jazz che appunto pensò e organizzò i primi concerti, anzi anche gli ultimi, molti dei concerti, perché Claude Nobs purtroppo ci ha lasciato nel 2013, ma il festival continua alla grandissima. Come dice il nome, inizialmente era devoto al jazz, poi neanche tanto piano piano, ma con una velocità discreta, si è aperto prima al blues e poi praticamente a tutte le altre forme musicali, sempre con una qualità eccelsa. Sempre va in scena in luglio, e è impossibile trovare posto, quei pochi posti che si trovano, sto parlando degli alberghi, a questo punto sono dei prezzi esosissimi, come del resto tutta la Svizzera. Avrete già capito che questa prima parte della trasmissione è dedicata a questo festival, il Montreux Jazz Festival, con una serie di musicisti e bands che hanno partecipato nel corso degli anni sul palco di questo fantastico festival. Iniziamo da quello forse meno più famoso, un personaggio, un grande chitarrista anche lui, ma sconosciuto ai più, però molto apprezzato dai propri colleghi. Si chiama Albert Lee. Insieme ai Soin Hogan Heroes partecipò nel 1992 al festival, e lui è un chitarrista inglese, anche se suona molto molto americano, come sentirete anche nel brano che ci andiamo ad ascoltare. Il suo primo album solo è stato nel 1979, ma lui era on the road, on stage ormai da parecchi anni. In Full Flight si chiama questo album, è l'unico che ci ascolteremo quest'oggi che non fa parte della serie chiamata appositamente Montreux Jazz Festival, che è una serie che ha pubblicato un'infinità di concerti, o di spezzoni di concerti per meglio dire. Questo invece è stato pubblicato prima che nascesse questa benemerita serie, e infatti ha un titolo, si chiama In Full Fly, l'ho appena detto. È stato registrato al festival il 4 luglio del 1992. Vi dicevo che Albert Lee, insieme ai Soin Hogan Heroes, è stato sempre considerato un britannico americano, più americano a volte che britannico nel senso musicale, e a dimostrarlo arriva questa Country Boy. We're gonna finish up with a tune that I wrote many, many years ago. Thanks to Ricky Skaggs is still around. His Country Boy. Thank you. Bye. Thank you very much. Hogan's Heroes, please. Icona della musica di New Orleans, pianista, cantante, chitarrista Mack Rebennack, più conosciuto con il nome di Dr. John, è stato diverse volte in quel di Montreux, sono stati pubblicati addirittura 3 album registrati in quel festival, uno del 1986, l'altro è una raccolta di registrazioni fra l'86 e il 2012, e poi c'è questo Live Montreux 1995, dal quale ci siamo ascoltati questo brano un classico di Dr. John che si chiama Right Place, Wrong Time. Era il 19 luglio del 1995 per questo brano che mi rappresenta molto, perché sono stato diverse volte nel posto giusto al momento sbagliato. Ad esempio a Montreux sono stato, ero lì davanti al posto dove fanno tutti i concerti. Peccato che fosse 15 giorni prima del festival. Thank you. 14 luglio 1998, due giganti sul palco del Montreux Jazz Festival. Carlos Santana, chitarrista, ma questo lo conoscete perfettamente, sicuramente meglio di me. Wayne Shorter, sassofonista eccelso, una carriera lunghissima nel campo della musica jazz o fusion, chiamatelo come volete, jazz rock, ma un grande del sassofono, e uniti insieme. La band di accompagnamento era quella di Carlos Santana. Wayne Shorter insieme a lui fece un breve tour con qualche data soprattutto in Europa, e appunto il 14 luglio dell'88 erano in concerto a Montreux, il tutto immortalato in un doppio dischetto veramente notevole che si chiama Live at the 1988 Montreux Jazz Festival. Ci sono in alternanza brani di Carlos Santana famosissimi e brani di Wayne Shorter, tipo quello che ci siamo ascoltati, che si chiama Elegant People. Arriviamo adesso a quello che è il più anziano dei brani che vi propongo quest'oggi. La registrazione più vecchia di oggi arriva dal 1973. L'album si chiama semplicemente, come sempre, Live at Montreux, scritto in una specie di corsivo che probabilmente era la calligrafia di Claude Nobs, appunto il decano, il capo il capo del festival, colui che l'ha ideato e che l'ha condotto per tantissimi anni. Di scena è una band che si chiama Canned It, si chiama tuttora così, anche se non c'è più nessun membro originale. L'unico membro duraturo, diciamo così, il più duraturo, che si chiama Adolfo Fito della Parra, che è il batterista, che è con la band dal 67, mentre la band si è formata nel 65. Pare però che Fito della Parra gliel'abbia data su, abbia appeso le bacchette al chiodo, e vedremo quello che succederà al resto della band. È stata una delle prime band blues di ragazzi bianchi ed ha avuto un successo planetario. Ricordo ancora una volta, incredibilmente, una trasmissione televisiva che, se ricordo bene, andava in onda la domenica ora di pranzo, e condotta da Pippo Baudo, e incredibilmente in una di queste trasmissioni ci furono i Canned It, che cantarono proprio la canzone che vi faccio ascoltare adesso. Si chiama On the Road Again, Canned It. Oh, you down. I'm your Iceman, lady. Don't wait no when I'm around. I just left Leona, Texas, to hit the cold and play the town. I'm gonna play this on guitar in the Lansing Fire with my eyes. I'm gonna play this on guitar in the Lansing Fire with my eyes. It sounds good to me. You know I just might play it twice. Hey. Uno dei grandi della musica blues di tutti i tempi, si chiamava Albert Collins, veniva da Leona, Texas, è stato uno dei veramente dei grandi della musica blues, ha partecipato al Festival di Montreux diverse volte. Questa è stata registrata e pubblicata, naturalmente si chiama Live at Montreux 1992, appunto 1992. Albert Collins ha fatto un sacco di album durante la sua lunga carriera, molti dei quali dal vivo. E questo Live at Montreux è stato registrato il 10 luglio del 1992. E Albert Collins aveva due soprannomi, il primo era quello di Master of the Telecaster, il maestro della Telecaster, la famosa chitarra della Fender, e The Iceman, come il brano che ci siamo ascoltati, che è quello che appunto gli ha dato il soprannome. Non fa parte della serie Live at Montreux, ma è la facciata B di un vinile vecchissimo di tantissimi anni fa, un live, mezzo live per meglio dire, da parte di una band che veniva da Augusta, anzi viene tuttora da Augusta in Georgia, perché fra alti e bassi dal 1970 è ancora in attività. Il tutto dovuto agli impegni con altri band da parte di uno dei membri fondatori nonché leader, Steve Morse, chitarrista famosissimo che molti di voi conosceranno per la sua militanza nei Deep Purple. È una band anomala, quella dei Dixie Drags, perché malgrado molti la considerassero una southern band, mescolava tantissimi generi, veramente tanti, forse anche un po' troppi. Aveva anche un violino nel proprio organico, violino fisso, e questo Night of the Living Drags è un album, come dicevo, in vinile, la prima facciata in studio e la seconda invece è stata registrata al Festival di Montreux il 23 luglio del 1978. Non so se sia stata fatta una una versione CD meriterebbe anzi di essere ampliata, perché soprattutto la facciata B è molto molto accattivante, come dimostra questo brano che è quello che dà il titolo a tutto l'album, appunto The Night of Living Dregs, Dixie Dregs. Her face. woman down was your sister. Her silence did corroborate. She took her cues from the climate and never knew another way. Who do you take me for? La registrazione più recente di oggi, per quel che riguarda la trasmissione di oggi, al Montreux Jazz Festival, arriva dal 2012, cantante canadese from Ottawa, Ontario, Alanis Morissette, grande successo mondiale col suo terzo album del 1995 che si chiama Jack the Little Pill. Questo invece era Live Montreux 2012, è stato registrato appunto il 2 luglio di quell'anno. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Woman Down e conclude questa piccolissima rassegna di brani registrati a Montreux. Ce ne sono un'infinità, quelli di oggi sono solo appunto un'infinitesima parte. Ci saranno sicuramente altre occasioni per ascoltarci registrazioni effettuate in questa ridente cittadina svizzera. C'est une dédicace en fait à notre grand batteur, Mr. Dennis Chambers. And the piece is called Mr. DC. We'll be right back. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo al 18 febbraio 2026 e abbiamo iniziato la seconda parte come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, John McLaughlin and the Fourth Dimension, Montreux Jazz Festival 2022. E abbiamo iniziato anche con un piccolo assolo di batteria che non fa mai male da parte del chitarrista, del batterista scusate, dei Four Dimension, che si chiama Nicolas Vaccaro, anzi Vicaro o Vicaro, non so bene quale sia l'accento e non so esattamente neanche la cittadinanza di questo grandissimo batterista. Il brano, come è stato annunciato in francese dallo stesso John McLaughlin, si chiama Mr. DC. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva la Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, ancora una volta, lo so che sono tedioso ma è così. Ci sono tantissime cose registrate in questa giornata, per cui il criterio di scelta è un brano per ogni decade, a mio insindacabile giudizio. Iniziamo subito alla grande con un grandissimo personaggio, veniva da Ballyshun, County Donegal, Irlanda, cantante ma soprattutto grande chitarrista, partì con i Taste nel 1966 e dopo lo scioglimento di questo trio iniziò una carriera solista piena di ottime cose. Lui si chiamava Rory Gallagher, l'avrete spero già capito, e il suo primo album solista appunto è del 1971. Lui purtroppo è morto tantissimi anni fa, oramai nel 1995, e ha lasciato veramente un grande vuoto nel mondo chitarristico blues, ma non solo blues. E dopo la sua morte sono usciti molti album. Suo fratello, che se ricordo bene si chiama David, ha curato diciamo tutto quello che riguardava suo fratello e ha pubblicato diverse cose dal vivo, ma questo è un triplo CD che si chiama Blues. Sono due album in studio e il terzo invece è tutto dal vivo, registrato in diverse location. Questo brano, che è un brano di Freddie King, uno dei tre grandi King del mondo blues, uno si chiama Albert, si chiamava Albert, e l'altro si chiamava BB, e tutto è stato registrato a Newcastle, al City Hall di Newcastle, il 18 febbraio del 1976. Il brano si chiama I'm Tore Down, Rory Gallagher. We'll be right back. she said, I'm gonna tell you when I'm gonna talk. Grandissimo chitarrista Rory Gallagher from Ballyshannon, Irlanda naturalmente, e la sua chitarra Fender Stratocaster rovinatissima è uno dei suoi punti più fotografati, per meglio dire. E lui era veramente grandissimo. Il tutto quello che ci siamo ascoltati, I'm Tore Down, un pezzo di Freddie King, lo ripeto, è stato registrato alla City Hall di Newcastle 18 febbraio 1977. Ma andiamo avanti, starei ore ad ascoltare questi slow blues che sono veramente incredibili. Andiamo avanti perché adesso c'è una grandissima band, una band che è stata fantastica dal 1976 al 1986. Diciamo che gli ultimi anni sono stati un po' meno fantastici, ma i Clash sono stati sicuramente una delle band più di tutta la Gran Bretagna, di tutta la storia musicale della Gran Bretagna e non solo Gran Bretagna. Loro naturalmente venivano da Londra e, come vi ho detto, si erano formati nel 76, sono sciolti ufficialmente nell'86, ma già da qualche anno era rimasto solamente come leader Joe Strummer con Paul Simonon al basso. Gli altri musicisti variavano. Dopo il 1986 sono stati pubblicati due album dal vivo. Il primo si chiama From Here to Eternity, come il caso precedente di Rory Gallagher è stato registrato in diverse locations. Questa in particolare è stata registrata al Lewisham Odeon di Londra il 18 febbraio 1980. I Clash furono fra i primi a mescolare reggae, ska, dub e rock e punk naturalmente. E questo ne è un esempio, è un brano di un cantante, artista giamaicano che si chiamava Willie Williams e che ha scritto fra le altre cose questo brano che ci andiamo ad ascoltare da parte dei Clash, Armageddon Time, 18 febbraio 1980. This song is called Armageddon Time, you know. Playing around, I'm playing around. This whole town too long. seem like I gotta travel. Everybody. Grandissimi veramente i Clash, una cosa assolutamente incredibile. Armageddon Time, il brano che ci siamo ascoltati, come dicevo prima, ma non fa mai male ripeterlo, un brano di Willie Williams, cantante e artista giamaicano, il tutto registrato dal quartetto londinese al Lewisham Odeon di Londra, appunto, il 18 febbraio 1980. Abbiamo una registrazione del 1995, qui c'è un preambolo da fare. È esistita per tanti anni una radio che a me piaceva tantissimo, la reputo tuttora una delle migliori in assoluto dell'Emilia Romagna e non solo. Aveva sede a Scandiano, provincia di Reggio Emilia, si chiamava K-Rock ed era veramente fantastica, grandissima musica, grandissimi DJ, veramente una grande radio. E avevano anche in gestione un locale che si chiamava Corallo, adesso è stato distrutto per fare una palazzina di appartamenti, e lì passarono veramente fior fiore di musicisti. Posso dirvi solo i Waterboys, i Blasters, Steve Little Fingers, Litfiba, per quel che riguarda l'Italia anche in negrita, Davide Van der Sfross, i Gang, gli Schiantos e anche i Modena City Ramblers. Perché ce ne andiamo ad ascoltare? Perché K-Rock pubblicò un album, che è quello che ho tra le mani, che si chiama Alternatives Nights Live. Non so quanto ufficiale sia, però per stavolta farò una piccola eccezione, sia per amore di K-Rock, per amore del Corallo e per amore dei Modena City Ramblers, che il 18 febbraio del 1995 erano appunto in concerto in quel locale. E loro hanno suonato quella sera, come quasi sempre sul finale del concerto, un brano originale di Bob Geldof che loro avevano, diciamo, presso poco tradotto. Si chiama The Great Songs of the Great Song, perché è singolare, of Indifference, e ce l'andiamo ad ascoltare. 18 febbraio 1995, Modena City Ramblers. Beh, ragazzi, no. E qua amiceva ste vo a me, amiceva ste vo a me, amiceva ste dise, non amiceva neanche un po'. Amiceva steve a morir, ed er tan steve a dormir. Amiceva ste tamar, amiceva un cas. Amiceva d'un panegna, anche d'un vicere fe. Vinto paghendo a soste, amiceva te andò. Padron disoccupazione, anche a me caso una spas, amiceva un cas. Amiceva spemma sfera al maradon, al giornale, stimpi che o stingarzon. Amiceva stimaron. Amiceva dinimer, tannue trassamo quelle sete di cassantot mat. Amiceva un cas. Ando! Somilla neva e dal pepa solo cranceva e la pepa è di ragastas. Amiceva un cas. Amiceva di guarnan, amiceva dai cantan e d'agnelli e Berlusconi. Amiceva stimaron. Amiceva ste un morto e fa, ste un povretto scuro un can. Amiceva d'un prostaf. Amiceva un cas. Andò! Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da amincevo un cazzo. Vi ringraziamo per la collaborazione, ci siamo arrivati in fondo, siete stati bravissimi e questa volta meritate veramente un applauso a voi. E comunque vi salutano Luciano Albenzo e Buzzucchi, Massimo al basso, chitarra, Alberto alla fisarmonica, Franco al T-Wister e Marco al violino, Roberto alla batteria, alle percussioni e alla voce, Alberto e Cisco. Grazie. Bravo. E vi ringraziamo moltissimo. Un saluto a Cava che è dietro al mixer e a Pier che vende dei CD e delle maglie non so dove. E ringraziamo anche Fabio il Dado. E ringraziamo anche Marco e i ragazzi qua sotto che tutta sera che li tengono. Your mom. È un quintetto che viene da Southport nel Merseyside, naturalmente in Gran Bretagna, ed è attivo dal 1997. È uno dei migliori esempi di indie rock, sempre che questo genere sia, come tutti i generi, catalogato. Si chiamano Gomez, Liquid Skin, il loro secondo album in studio, è stato pubblicato nel 1999, e nel 2019, in occasione del 20° anniversario, è stato ripubblicato in versione 2 CD. Sul secondo ci sono 9 canzoni registrate al Fillmore di San Francisco in California il 18 febbraio del 2000. Gomez sono parecchio famosi soprattutto in California. Il loro album live, che si chiama Going West, è stato registrato sempre nello stesso luogo, in epoca diversa naturalmente, ma il fatto che pubblichino ancora una volta una registrazione effettuata al Fillmore vuol dire che sono ben voluti da quelle parti. Il brano che ci hanno ascoltati da questa ristampa si chiama Blue Moon Rising, era, lo ripeto, il 18 febbraio del 2000. Fin dall'inizio della loro carriera gli U2 hanno avuto una gestione, un'organizzazione, per meglio dire, del fan club veramente notevole. Ci si associava e si discuteva, si facevano tante cose, e tutti gli anni veniva dato in omaggio a chi si iscriveva qualcosa, un item, diciamo. Poteva essere un libro, poteva essere un libro di fotografie, poteva essere un album, e naturalmente quando ci sono gli album, soprattutto nel caso che siano, come spesso è accaduto, dal vivo, mi ci butto a capofitto. E questo è uno di quelli, si chiama It Could Never Happen Here. È un regalo che è stato fatto a chi si iscriveva nel 2022. È stato registrato, come spesso accade, in diverse location. Questa in particolare è stata registrata a Cape Town, South Africa, il 18 febbraio 2011. Ho tralasciato di parlare degli YouTube perché penso che li conosciate tutti, e soprattutto per quel che riguarda la prima parte della loro carriera li apprezzate alla grande. Ce l'andiamo ad ascoltare, il brano si chiama Mysterious Way e loro sono naturalmente YouTube. Yeah. YouTube con la loro Mysterious Ways, Ways registrata a Cape Town, South Africa, il 18 febbraio 2011, a concludere i Ricordi Today di oggi. Molto velocemente a concludere invece Città Fusico Live Club ci penso alla novità che vi ho proposto quest'oggi, John McLaughlin and the Four Dimension Montreux Jazz Festival 2022, un album doppio CD più Blu-ray veramente notevole. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo solamente che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club appunto, da Radio Città Fujiko in Bologna, Northern Italy diciamo così, e un saluto ancora una volta a tutti i nuovi ascoltatori toscani e lombardi e anche a quelli vecchi e nuovi emiliani. L'appuntamento per mercoledì prossimo, stesse modalità d'uso, stessa frequenza, stesso web, stesso DAB. Vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, John McLaughlin, il brano che ho scelto per voi forzatamente visto il tempo che sta scorrendo, New Blues Old Rise. Grazie a tutti da Nevio.